B. Ascolta e completa il dialogo. Ciao, mamma. Ciao. Come stai? E la piccola? Bene, bene. Emma è qui con me. Ieri siamo andati tutti e tre al matrimonio di Alessandro e Daniela. Ci siamo divertiti tantissimo e ci siamo fermati fino a tardi. Bravi, bravi. Dovete sempre uscire insieme a Emma e stare sempre con tante persone. In questo modo lei si abitua a sentire le voci, i rumori, vede cose nuove e così ogni giorno impara qualcosa di nuovo. È vero! Ieri sera non ha pianto mai, è stata buonissima. All'inizio mi sono un po' preoccupata, a dire la verità, mi sono messa a preparare tutto ieri mattina verso le 10. La borsa con i pannolini, il passeggino, le copertine. E alla fine mi sono ricordata di dover stirare la mia camicia. Insomma, ci siamo seduti in macchina giusto in tempo per arrivare all'inizio della cerimonia in chiesa alle 5. È stata buona in chiesa? Sì, sì. Meno male. Ehi, ti sei ricordata di prendere le vitamine?